stato mai più solo di così. È notte ma vorrei che fosse presto lunedì, con gli altri insieme a me per fare la città, con gli altri chiusi in sé che si aprono al sole come fiori quando si risvegliano, si rivestono, quando escono, partono, arrivano, ci somigliano, angeli avvoltoi, come specchi gli occhi nei volti perché gli altri siamo noi. Soffio di un'idea, alla come Gesù in chiesa o dentro una moschea, e gli altri siamo noi, ma qui su una stessa via, vigliacca metterò e lasciamo indietro i pezzi di altri noi. Che ci aspettano, che si chiedono, perché nascono e subito muoiono. Forse primo poi gli altri siamo noi. Quanto piangono, oh, oh, oh. Gli altri siamo noi, siamo noi, siamo noi, oh, oh. Gli altri siamo noi, gli altri siamo noi, oh, oh. Gli altri siamo noi, siamo noi, siamo noi. Appartamenti e di tranquillità lontana.